Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Sorride Anders Breivik, condannato a 21 anni di carcere per la strage di Utøya, il massimo previsto in Norvegia. A Berlino l'incontro fra la cancelliera tedesca Angela Merkel e il premier greco Samaras. Doping, Lance Armstrong rinuncia a difendersi verso la revoca dei 7 Tour de France vinti. Calano incidenti e morti sulle strade, funzionano i maggiori controlli e l'educazione stradale, ma è anche un effetto della crisi. Buona giornata dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. In primo piano la condanna arrivata per Anders Breivik, che un anno fa, come ricorderete, uccise 77 persone. Domen è enstemmig e ha följande slutning. Anders Behring Breivik. Ascolta il verdetto sorridendo Anders Breivik. Il tribunale di Oslo lo ha dichiarato sano di mente e lo ha condannato a 21 anni di carcere, la massima pena prevista dall'ordinamento norvegese. Se il 33enne, autore degli attentati di Oslo e Utøya, costati la vita un anno fa a 77 persone, sarà ritenuto ancora pericoloso per la società, la detenzione potrà essere prorogata anche indefinitamente. Respinta dunque la tesi della pubblica accusa, aveva chiesto che l'imputato fosse dichiarato schizofrenico paranoide così da poterlo internare a vita. Un tema, quello della sua sanità mentale, che ha diviso gli esperti a colpi di perizia, oltre che l'opinione pubblica norvegese. Lo stesso Breivik aveva annunciato ricorso solo nel caso fosse stato dichiarato pazzo. Freddo, lucido e spavaldo come sempre, entrando in aula, ha fatto il saluto nazista come 4 mesi fa nella prima udienza del processo, davanti a parenti delle vittime e sopravvissuti, gli stessi che ora esultano e dicono «ora è finita davvero». Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E torneremo a parlare ampiamente di questo argomento fra poco, e Nessun Luogo è Lontano, con Giampaolo Musumeci alla fine di questo GR24. D'ora a Berlino per l'incontro fra la cancelliera tedesca Angela Merkel e il premier greco Antonis Samaras. In diretta da Berlino, l'inviato del Sole 24 Ore Vittorio Darold. Tra pochi minuti arriveranno il cancelliere tedesco Angela Merkel e il primo ministro greco Antonis Samaras per la conferenza stampa alla cancelleria di Berlino. Samaras ha probabilmente chiesto 2 anni in più per le riforme e la Merkel ha risposto di andare avanti con il piano in attesa del giudizio della Troika che arriverà a ottobre. Questa mattina il Financial Times Deutschland ha reso noto che il Ministero delle Finanze tedesco ha preparato un piano B per quantificare i costi dell'eventuale uscita della Grecia dall'euro. Continua così il braccio di ferro tra i falchi tedeschi e appunto chi vuole dare più tempo alla Grecia. Domani Samaras sarà a Parigi per un incontro con Hollande, ma i venti di recessione che soffiano ormai in Eurozona rendono il suo pressing molto difficile e complicato. Da Berlino a tutti, a voi studio. E questa mattina borse europee con il segno negativo, in aumento lo spread a 440 punti. È in corso a Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei Ministri, la prima dopo la breve pausa estiva. Sul tavolo le proposte dei vari ministri per la crescita e le priorità del governo da qui a fine legislatura. Nuova eclatante protesta degli operai dell'Alcoa di Portovesme dopo aver bloccato l'aeroporto di Cagliari mercoledì. Questa mattina oltre 200 dipendenti hanno occupato gli ingressi di 2 moli del porto di Cagliari. Un gruppo si è gettato in mare per impedire l'attracco del traghetto proveniente da Civitavecchia. In mancanza di un nuovo acquirente, Alcoa ha annunciato la chiusura degli impianti dal 3 settembre. Bruno Usai, delegato Fiamma CGL, è uno degli operai che si è buttato in mare. Noi siamo al porto di Cagliari, volevamo così porci nelle vicinanze dove sbarcheranno i turisti che arrivano in Sardegna, e ancora una volta volevamo porre l'attenzione della stampa nazionale, dei media nazionali, il dramma che noi stiamo vivendo. Stiamo perdendo il posto di lavoro, sta chiudendo l'unica fabbrica che produce alluminio in Italia. Semplicemente abbiamo trovato però normale le forze dell'ordine a bloccarci l'accesso verso l'attracco della nave. Allora abbiamo attuato un'azione un po' così diciamo anche estrema, ci siamo buttati in acqua e a nuoto abbiamo raggiunto l'altra parte del porto e siamo entrati lo stesso. Gran parte di tutti sta reagendo che sono solidari con noi. Io non credo che per mezz'ora di blocco nave, blocco della propria auto, sia una condizione in cui nessuno può resistere. Diverso è perdere il posto di lavoro, non avere più il sussidio per sistemare, per assistere le proprie famiglie. Restiamo in Sardegna perché è scoppiato un caso sulle magliette del Cagliari alla riapertura del campionato. Ci racconta tutto in diretta qui accanto a me Carlo Genta. Ne avevamo abbastanza di polemiche, Piera, prima dell'inizio di questo campionato. Sono tre giorni che sentiamo parlare Antonio Conte, adesso sentiamo parlare invece l'assessore regionale al turismo della regione Sardegna. Perché? Perché il Cagliari oggi ha presentato la nuova maglia, primo sponsor la regione Sardegna, sotto la regione Sardegna la Tirrenia, co-sponsor nuova Tirrenia, dunque si affianca al nome Sardegna sulle maglie del Cagliari. Peccato che insomma non ci siano buoni rapporti tra la regione Sardegna e questo marchio, e l'assessore al regionale al turismo Sarebbe arrabbiato. È un obbrobrio vedere il marchio turistico della Sardegna al fianco di chi, come vecchia e nuova Tirrenia, ha deliberatamente messo in ginocchio il sistema economico dell'isola. Questa è la reazione. Poi magari parleremo anche di calcio, perché sarebbe anche ora, perché domani si torna in campo. Si torna in campo domani con due anticipi, uno alle 18 Fiorentina Udinese e poi alle 20:45 ci sono già i campioni d'Italia della Juventus che sfidano il Parma. Ricordo che le partite della domenica si giocheranno tutta la sera alle 20:45, tranne quella del Milan in programma alle 18, quindi turni serali per queste prime due giornate. Vabbè, adesso fa fresco, si sta anche bene alla sera. Si sta anche bene, speriamo. D'inverno un po' meno. Grazie ciao, a Carlo Genta, e restiamo sullo sport, se così si può chiamare. Esce di scena il ciclista Lance Armstrong, travolto dall'inchiesta sul doping. Si sgretola e crolla il mito di Lance Armstrong, l'uomo capace di sconfiggere il cancro, di tornare alle corse e di vincere 7 tour consecutivi. È un re nudo. Dopo essersi visto respingere 4 giorni fa l'ennesimo ricorso contro l'USADA, l'agenzia antidoping americana, Lance Armstrong ha deciso di gettare la spugna e ha reso noto che non tenterà più di contrastare le accuse rivoltegli, pur continuando a professarsi innocente. Immediata la reazione dell'USADA, il cui direttore Travis Taggart ha annunciato che chiederà la revoca di tutti i titoli conquistati in carriera dal quasi quarantenne ciclista texano, comprese i 7 Tour de France che costituiscono tuttora un record assoluto. È l'ora di dire basta, la nota uscita sul sito del corridore che continua a professarsi innocente. Arriva sempre il momento per un corridore di dire quando è troppo, ho dovuto sentire di aver barato e aver trattato illeciti vantaggi nelle mie 7 vittorie del Tour de France. Sul caso Armstrong è arrivata anche la presa di posizione della WADA, l'agenzia mondiale antidoping, che per bocca del presidente John Fahey elogia l'operato dell'USADA. Se Armstrong rinuncia a difendersi significa che le accuse dell'USADA hanno un fondamento. Il ritiro dei 7 tour e delle medaglie olimpiche, Armstrong vinse il bronzo nel 2000, non spetta comunque alla mia agenzia. Per Augusto Stagi, Radio 24, Sole 24 Ore. Celeste, la bambina veneziana di 2 anni malata di atrofia muscolare spinale, sta riprendendo in queste ore le cure agli ospedali civili di Brescia. Le iniezioni di cellule staminali adulte prelevate dalla madre possono riprendere grazie alla decisione del giudice che 2 giorni fa, ricorderete, aveva annullato lo stop imposto dall'Agenzia del Farmaco a maggio. Si cerca una punto grigia a bordo della quale sarebbero fuggiti i killer che ieri a Terracina, sul litorale pontino, hanno ucciso in un agguato di camorra il boss scissionista Gaetano Marino. L'uomo, 48 anni, è stato freddato con 6 colpi di pistola sul marciapiede di uno stabilimento balneare in mezzo ai bagnanti a pochi metri dalla spiaggia. Sarà probabilmente l'ultimo fine settimana di traffico quello che sta iniziando in queste ore. Intanto arriva un dato positivo su incidenti e morti sulle strade. Sarà la crisi che ha reso un po' meno trafficate le nostre strade, saranno i controlli più severi e capillari, la tecnologia che costruisce auto più sicure e mettiamoci pure anche un poco di prudenza in più degli automobilisti. Il numero degli incidenti mortali in Italia è in costante diminuzione e lo scorso anno, per la prima volta, abbiamo fatto meglio della Francia, che ha una popolazione di poco maggiore alla nostra, ma ha sempre registrato un numero di morti su strada inferiori all'Italia. Lo scorso anno le vittime sulle nostre strade sono state 3.800 contro le quasi 4.000 in Francia, ma quello del 2011 è l'ultimo risultato di una serie positiva se pensiamo che solo 5 anni fa le vittime erano più di 5.100 e addirittura nel 1972, 40 anni fa, 12.500. I primi dati di quest'anno, aggiornati al 31 luglio, indicano lo stesso trend, anche se ancora molto c'è da fare, perché questi sono numeri di guerra. Una guerra che andrebbe combattuta con maggiore educazione stradale e anche con norme più severe supportate da adeguati controlli. Il Parlamento sta discutendo l'ipotesi di sospensione della patente fino a 15 anni per omicidio stradale o per chi guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'Istituto di Radiofisica di Losanna in Svizzera ha ricevuto il via libera dalla vedova di Yasser Arafat affinché vengano analizzate le sue spoglie. Si cercano eventuali tracce di polonio già riscontrate sugli effetti personali dell'ex leader palestinese, tracce che hanno contribuito a rilanciare la tesi dell'avvelenamento. Ora in Gran Bretagna è scontro aperto nella famiglia Murdoch. La figlia del magnate australiano Rupert, Elizabeth, ha preso le distanze dal fratello James nel suo primo intervento pubblico sullo scandalo intercettazioni che ha travolto il gruppo del padre, la News Corporation, sottolineando la necessità di puntare più sui valori morali che sul profitto. Il profitto senza scopo è una ricetta per il disastro, ha detto Elizabeth. E non ha resistito il Sun, il giornale Sun, pubblicata infatti le foto del principe Harry nudo. Due giorni fa, quando le foto erano apparse sul web, la Press Complaint Commission aveva ricevuto un invito da parte della Royal Family di intervenire per non far pubblicare le immagini. Ora lo stesso organismo di autoregolamentazione della stampa britannica dichiara di non avere intenzione al momento di censurare il Sun che l'ha fatto. Il tabloid, in un editoriale, motiva che le foto hanno potenziali implicazioni per l'immagine con cui il principe rappresenta la Gran Bretagna nel mondo e scrive che ci sono questioni di sicurezza nella vacanza di ieri a Las Vegas e dubbi sul fatto che la sua posizione nell'esercito possa venire toccata. Un portavoce di St. James Palace, dove il principe Harry ha il suo ufficio, ha lasciato intendere che farà cadere il caso. Lo scandalo non è comunque soltanto un caso mediatico. Harry è tornato a Londra mantenendo bassissimo profilo, come chiesto da padre e nonna, che sarebbero furiosi. Ma difensori della purezza della monarchia e antimonarchici allo stesso tempo si scatenano e si teme che possano saltar fuori altre foto della notte brava del principe scapestrato. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Estate 2012, stando ai dati pubblicati dal Ministero dei Beni Culturali, sono state giornate all'insegna del più per le visite ai maggiori musei italiani. Il sovrintendente della Galleria degli Uffizi e del Polo Museale Fiorentino, Cristina Cidini, conferma, ma avverte, sono numeri che indicano anche la forte concentrazione delle presenze in poche giornate di vacanza. Sul dibattito estivo intorno al polo milanese di Brera, Acidini dice, privati sì, ma il controllo resti al pubblico. Sentiamola al microfono di Gigi Donelli. Il primo semestre di quest'anno non era stato particolarmente incoraggiante. Direi che il picco di affluenza si è registrato nei tre giorni di Ferragosto, il 14, il 15, il 16, che hanno visto affluire all'intero polo museale fiorentino, che comprende 24 musei, visitatori mediamente nel 30% in più rispetto all'anno precedente. E circa il 30% ha riguardato anche gli Uffizi, mentre hanno fatto balzi davvero da giganti complessi, monumentali e museali come la Galleria Palatina e la Galleria d'Arte Moderna di Palazzo Pitti, che hanno incrementato i visitatori del 60% e passa. Certamente l'ingresso dei privati è un fatto già avvenuto e la loro presenza può essere risolutiva per i tanti problemi del sistema cultura Italia. È anche vero che ci sono capisaldi, i musei di Stato che nascono come tali, che sono punti di orgoglio nazionale, che vanno in ogni caso mantenuti in questa loro natura. Domani a Melpignano in Puglia, la notte della Taranta, giornata conclusiva del festival. Pizzicati dal ragno, sofferenti per la calura estiva, rapiti dal ritmo della musica, la notte della Taranta è arrivata, attesa per il grande concerto che si svolgerà a Melpignano nel Salento, dove ospite d'eccezione sarà Goran Bregovic con la sua Funeral Band. Ci divertiamo, anche noi abbiamo voglia di divertirsi come voi. Sai, il tuo territorio, non è il tuo paese non è niente politico o geografico, non sono frontiere politiche o geografiche, c'è sempre un sono le tue frontiere emozionali. Allora, dove abita il tuo cuore e il tuo paese? Allora, anche se questo paese si è distrutto, comunque questo territorio io sempre considero come il mio paese, anche se devo far vedere il passaporto 5 volte. E sul palco saliranno artisti croati e serbi insieme per una pace fatta con la musica, ma anche il coro delle Mondine di Novi, composto da donne emiliane cresciute nelle risaie, e l'ensemble diretta da Bregovic terminerà con la banda musicale di Racale. E per la notte della Taranta, oltre alle TV nazionali, arriveranno anche 2 truppe televisive straniere, quella della TV russa My Planet e quella britannica del quotidiano The Guardian. Tutti sedotti dal ritmo della pizzica e dalle note di Bregovic. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E torneremo ad ascoltare l'intervista a Bregovic oggi pomeriggio in Summertime, in onda alle 16. Questo GR24 è stato curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Paolo Corleoni. Prossimo GR24 alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.